fossi io, viene lento di vagar, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi parliamo di un argomento che probabilmente è condiviso per una parte fondamentale del pubblico di questa radio, ma non del pubblico che ci ascolta magari come sempre si è ascoltata la radio, da un apparecchio radiofonico, da un'autoradio, da un'attrezzatura comunque destinata unicamente all'ascolto radiofonico. Oggi parliamo soprattutto per quelli, sappiamo che sono numerosi, sappiamo che sono attivi, che ormai hanno reso possibile la resurrezione della radio, al di là della sua connotazione concreta, dal suo hardware. Immaginate che la radio ormai sia come una sorta di farfalla che ha abbandonato la crisalide. Non esiste più l'oggetto radio, l'hardware radiofonico, perlomeno rappresentabile con un elemento comunemente assimilabile all'immaginario di ognuno di noi. Se io parlo di televisore, potrete immaginarlo al plasma, LCD, agli LED, 16 noni, più o meno avete comunque l'idea di un oggetto ancora. La radio non è più identificabile con un oggetto contemporaneo. Esistono sì delle bellissime apparecchi radiofonici, ma la radio è incorporata ormai come pura essenza di suono in un'infinità di strumenti. Soprattutto la radio, molti dei nostri ascoltatori la ascoltano attraverso la rete. Quindi la rete internet ha determinato una maniera diversa di concepire la trasmissione del pensiero. Come le mie parole ormai viaggiano, si conservano, vengono registrate, possono essere sentite in differita grazie alla tecnologia digitale, grazie appunto alla rete internet, anche tutta una serie di altri saperi molto più illustri, molto più importanti, molto più fondamentali per il progresso e per la storia dell'umanità, hanno delle diverse modalità di trasmissione. Quindi la conoscenza che passa attraverso, è sempre passata attraverso alcuni supporti ben definibili. Giorni fa abbiamo fatto una trasmissione sulla mutevolezza dei supporti della memoria, cambia comunque, si muta grazie all'esistenza di una possibilità di velocizzare, di trasmettere e di ridurre soprattutto in dei contenuti impalpabili qualsiasi forma di sapere. Ma come cambia la conoscenza quando diventa un bene comunemente fruibile? Non esistono più i templi inviolabili della conoscenza, non esistono più i santuari accessibili soltanto a pochi eletti della conoscenza. Si sta sempre più diffondendo un sistema di pensiero per cui la rete, che ormai arriva dappertutto, accede ovunque, mette in comunicazione il vostro tinello con la grande biblioteca della grandissima università o del grande centro ricerche, diventa qualcosa di comune. Ma il fatto che sia comunemente fruibile a tutti non rende altrettanto facile le maniere, le conseguenze di questo distribuire il sapere. Beh, questa mattina di questo parleremo. Ne parleremo perché oggi all'Università La Bicocca a Milano si presenterà un libro importante, tradotto in Italia e pubblicato da Bruno Mondadori, La conoscenza come bene comune. L'edizione italiana è stata curata dal professor Paolo Ferri, che abbiamo al telefono. Paolo Ferri, buongiorno. Ricordo che sei docente di tecnologie didattiche, teoria e tecnica dei nuovi media proprio alla Bicocca. Ecco, questa mattina cosa si presenterà comunque al pubblico italiano e soprattutto qual è la domanda che pone la conoscenza come bene comune? Dunque, si cercherà di presentare intanto la vincitrice del premio Nobel per l'economia, nel senso che Elinor Ostrom è stata insignita del premio Nobel per l'economia quest'anno proprio perché ha studiato da lungo tempo il problema di come la conoscenza e in particolare la conoscenza digitale sia di fatto un bene comune e quindi non possa... Ricordo che è una delle due curatrici dell'edizione originale di questo libro. Sì, sì, sì, e quindi dicevamo come la conoscenza non possa essere imbrigliata, per così dire, per usare un'espressione frequente, in lacci e lacciuoli che la vincolano. In particolare ci si riferisce in questo caso al fatto che la legge e la legislazione sul copyright che è invalsa e che in qualche modo è a tutt'oggi in vigore e regola la vendita di contenuti di conoscenza utile attraverso i libri nel modello gutenberghiano, beh, in qualche modo vada in crisi nel mondo di internet e sia in qualche modo insensato considerare proprietà di qualcuno per troppo tempo e senza regole di condivisione chiare un bene che serve a tutti e che è utile a tutti. La rete internet velocizza e rende più facile la condivisione dei saperi e delle conoscenze, ma crea dei problemi di fronte ai quali ancora anche il giurista non è sufficientemente attrezzato. Noi siamo tutti presi dal rapimento, dal folle divertimento di trovarci improvvisamente nel nostro computer il film che ancora deve uscire nelle sale o che è già uscito, o la musica che dovremmo andare a comprare. Per molti è un gioco, per molti è un'attività che dà la frenesia di una pirateria a volte lievemente tollerata, per altre è un'attività lucrosa e detestabile. Insomma, ci si pone alcuni problemi. L'unica cosa di cui siamo sicuri è che il diritto d'autore, la proprietà di un bene come la conoscenza, un bene immateriale che diventa materiale quando si appoggia in un supporto, deve essere rivista. Su questo magari l'amico Andrea Rossetti, che è professore di filosofia informatica e giuridica all'Università Milano Bicocca, può aiutarci a capire almeno qual è lo stato delle cose. Andrea, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti. Lo stato è piuttosto confuso e l'applicazione ormai delle leggi del diritto d'autore sta dando anche esiti abbastanza paradossali. Mi riferisco ad esempio al caso di Superman, recentemente discusso in alcune corti americane, che ha visto riconosciuto agli eredi dei due inventori di Superman morti i diritti sulle origini di Superman. Quindi i prossimi film in cui comparirà l'uomo d'acciaio non potranno fare nessun riferimento a Krypton, perché l'idea di Krypton appartiene agli eredi appunto degli inventori. Un effetto veramente paradossale, no? Si mostra veramente come il diritto d'autore sta in qualche maniera disgregando, non tiene più da nessuna parte. Gli unici a non essere accorti ormai paiono essere in qualche modo le major o coloro che ricavano lauti guadagni dallo sfruttamento di questi diritti d'autore. Ecco, qual è la soluzione secondo te, Andrea? Porre dei limiti di tempo o cominciare a classificare qualcosa non più come un diritto inalienabile che dura per tutta la vita, che si può essere trasmesso agli eredi? Qui non è tanto il diritto d'autore come ormai gli studiosi hanno visto, ma è il fatto che sotto l'etichetta diritto d'autore si cela in realtà il diritto dell'editore spesso, no? Perché è ovvio che uno debba ragionevolmente vivere col frutto del suo lavoro, questo è chiaro, insomma. Il problema è che accanto all'autore vero e proprio vivono una serie di persone, una serie di figure che sono totalmente parassitarie. Non dimentichiamoci che fino a poco tempo fa, in realtà fino a una quarantina di anni fa, negli Stati Uniti il diritto d'autore era limitato a 14 anni dalla pubblicazione dell'opera, peraltro rinnovabile finché l'autore era in vita, però le cose sono radicalmente cambiate solo nel 1976 con una legge che ha collegato il diritto d'autore alla morte dell'autore, ha permesso di trasmettere i diritti agli eredi, insomma ha in realtà ristretto moltissimo le maglie di quelli che prima era un diritto che l'autore doveva in qualche modo riscuotere periodicamente, come d'altronde avevano voluto i padri fondatori, perché il limite dei 14 anni era stato appunto posto dai padri fondatori degli Stati Uniti d'America come limite per la protezione delle idee. Quindi se vogliamo citare un paradosso, io ad esempio potrei pubblicare Pinocchio, perché Pinocchio ormai mi sembra libero da il diritto che bisogna dare d'autore a Collodi, però per paradosso non potrei occuparmi o scrivere o qualcosa che ha a che fare con il pianeta Krypton, su Kal-El, sulla progenie di Superman. Ma sicuramente ovviamente non puoi, perché non detiene ovviamente i diritti sul personaggio Superman. La cosa incredibile è che neanche la Warner, che pure detiene i diritti su Superman per fare dei film, può fare questo, perché un giudice americano ha riconosciuto agli eredi il diritto di questo pezzo di Superman. È divertente, no? Perché in qualche modo ha riconosciuta proprio la teoria del personaggio letterario di cui parlava negli anni 70 Umberto Eco, no? Il personaggio letterario è un personaggio che è fatto in qualche modo con pezzi di qualità distinte. Il diritto d'autore sta dimostrando, così insensato, che viene applicato non più a un personaggio nel suo insieme, ma ad alcune caratteristiche di questo personaggio, ad esempio la nascita, le origini. C'è un'analoga vertenza in atto sempre negli Stati Uniti per quello che riguarda l'uomo ragno. Si sta discutendo di chi sia proprietà l'idea degli spararagnatele dell'uomo ragno. In futuro potrebbe accadere che nei prossimi film sull'Uomo Ragno, appunto Spider-Man non potrà lanciare spara ragnatele perché il diritto di questa idea appartiene ad alcuni che non l'hanno venduta a coloro che hanno realizzato il film. Ecco, ma secondo te, Andrea, il fatto che la rete poi propaghi, allarghi, distribuisca tutto in maniera così veloce, aumenta la concupiscenza da chi vuole brevettare qualsiasi respiro delle proprie palpitazioni cerebrali? Sì, questo indubbiamente, ma peraltro anche qui bisogna distinguere tra gli oggetti culturali di cui stiamo parlando, insomma, perché una cosa ovviamente se io sono un autore appunto che campa scrivendo libri e quindi è chiaro che ho bisogno di una tutela molto forte. Una cosa è sono un autore invece come ad esempio gli accademici, come gli studiosi, che non campa di ciò che scrive ma campa perché viene pagato dalle università o da qualche pubblica istituzione. Per questi ultimi in realtà il problema non è tanto vedersi garantiti i diritti economici su quello che pubblicano ovviamente, ma vedersi riconosciuta la paternità. Cioè a me non interessa francamente che mi vengano riconosciuti i diritti per i libri che scrivo, anche perché oggettivamente sarebbero diritti bassissimi, insomma. Ma mi interessa che le mie idee mi siano davvero attribuite. Da una parte c'è una corsa di queste persone appunto degli studiosi come me all'utilizzo della rete per appunto in qualche modo testimoniare la primogenitura da parte delle idee. Dall'altra parte invece a coloro che detengono i diritti di sfruttamento economico c'è invece un tentativo di non mandare queste cose in rete. Dal momento che la rete, la struttura stessa della rete fa sì che queste cose si diffondano facilmente, allora loro cercano di inasprire le misure giuridiche per evitare che le persone scarichino dalla rete. Però se creandosi un grosso limite comunque. E caspita sì, perché in realtà la rete è proprio un metodo di diffusione capillare e assolutamente pervasivo, ovviamente dove arriva la banda larga. Però voi insomma intervistate un qualunque sedicenne o anche un ventenne, non percepirà davvero il fatto di scaricare un contenuto protetto dalla rete come un reato. Paolo Ferri, proprio su questa cosa che ha detto Rossetti, c'è una percezione del compiere un atto trasgressivo che aumenta anche il piacere di condividere quel tipo di sapere? Ma dunque, in qualche modo no, nel senso che la normativa sul diritto d'autore è sconosciuta ai 14-22 anni e in realtà la maggior parte, c'è una recente indagine dell'AIE. Lo vede lecito quell'atto? Sì, lo considerano un atto più che lecito naturale, cioè nel senso che ci sono ricerche che dimostrano come solo il 20% degli adolescenti e preadolescenti in rete considerino come qualcosa di illegale scaricare un contenuto dalla rete, per cui si sta aprendo in qualche modo una forbice molto insidiosa tra la legislazione che diventa come le grida manzoniane, no? Sempre più aspra, e le pratiche d'uso della rete che diventano invece sempre più naturali. Allora è chiaro che qualcosa debba cambiare comunque, perché se è diventato un atteggiamento istintivo e naturale è un po' difficile a posteriori che una legge riesca a imbrigliare e riportare un'ideologia a condizioni predigitali. Assolutamente, è come mettere il dito nella diga. Quello però che non dobbiamo dimenticare che è un grosso rischio per tutti noi, per tutti noi che produciamo conoscenza, ma anche per coloro i quali producono contenuti creativi o di svago, è il fatto che esiste una catena del valore, cioè in qualche modo produrre conoscenza costa e quindi in qualche modo va ristrutturata, e su questo la Ostrom nel libro che presentiamo questa mattina ci sono alcune utili indicazioni, va ristrutturato il modo in cui viene retribuita la produzione creativa o la produzione di conoscenza utile. Tutelando di più l'autore e in qualche modo abbattendo queste rendite di posizione che sono quelle, diciamo così, degli editori, ma soprattutto degli editori musicali, che in qualche modo si fanno pagare per un servizio che non erogano più. Che alla fine nessuno stampa più, o perlomeno nessuno punta sul supporto fisico e concreto di un CD di musica, ad esempio, per diffondere la musica. Esattamente, allora perché costa pochissimo. Una volta gli studi di registrazione, il vinile, le fabbriche, gli stessi alberi che venivano tagliati, voglio dire, se da qui a 5 anni, come è molto probabile, si diffonderanno supporti per la lettura come gli ebook di cui tu tu tra l'altro hai spesso parlato, cioè supporti digitali nei quali è possibile archiviare, che ne so, l'intera biblioteca del Congresso con facilità, beh, è chiaro allora che a quel punto la necessità di riformare, e io ho qualche idea su questa cosa, di riformare il modo la catena del valore della conoscenza utile, ma anche della conoscenza creativa, diventa urgentissimo. È chiaro che dovranno in qualche modo scendere i prezzi. Io ho una posizione anche più radicale, credo che si dovrà a un certo punto istituire una tassa sulla conoscenza. Mi rendo conto che le tasse non sono bellissime. Beh, oddio, se la paghiamo sulla televisione pubblica, possiamo pagarla anche sulla conoscenza. Ecco, appunto, esattamente come, ma paghiamo l'acqua, cioè la Ostrom prima di studiare la conoscenza ha studiato il libro di cui parliamo oggi e racconta di casi come l'acqua piuttosto che un campo dove si pesca, un campo di pesca. È evidente che anche quei beni sono beni che ci sembra di non pagare. Allora senti Paolo, ci interrompiamo soltanto un attimo per dare le informazioni alla borsa, riprendiamo il discorso interessante fra un istante, cominciando a capire quali potrebbero essere le soluzioni per non galleggiare soltanto nell'utopia. È possibile ristabilire il sistema, la catena di valore attribuibile alla conoscenza, alla luce del fatto che la conoscenza ormai si distribuisce molto più facilmente che in passato. A tra un istante. Email melog@radio24.it. Melog 2.0. Stiamo parlando della conoscenza come bene comune, che è un libro di Bruno Mondadori che viene presentato oggi all'Università della Bicocca nella sua versione italiana, curato tra l'altro da un premio Nobel come Elinor Ostrom, di cui stiamo parlando assieme ai curatori di questo libro, una serie di altri personaggi ed esperti che ci dovrebbero riuscire a farci capire come si risolve il problema, il dilemma, probabilmente non coglie tutti nelle proprie priorità quotidiane, ma è un problema che senz'altro è molto sentito anche all'interno delle famiglie, della possibile ridistribuzione dei profitti da un creatore di conoscenza, chi compone una musica, scrive un libro, compone una sinfonia, aggiunge qualcosa al pensiero dell'umanità, e poi si trova di fronte al problema che è molto facile distribuirlo, ma è molto difficile ottenere da questa distribuzione comunque quello che è un giusto compenso per la propria fatica. Anche le fatiche intellettuali, anche le fatiche dello spirito meritano di essere compensate. Esiste purtroppo, ahimè, e lo sanno tutti coloro che vengono spesso invitati a fare convegni, a scrivere prefazioni, a porre la propria mente in delle riunioni creative, anche il lavoro intellettuale è un lavoro che ha necessità, diritto pieno di essere retribuito. Molto facilmente, anzi nessuno si pone il problema di dare il giusto compenso a un idraulico che viene a casa a sturarci il lavandino, ma di fronte alla richiesta di un amico mi scrivi una prefazione, se uno dice sì ma quanto mi dai, siene visti come se fosse un oltraggio vivente alla catena di solidarietà che dovrebbe esistere tra gli intellettuali. Sei d'accordo Paolo Ferri su quello che sto dicendo? Sì, no, sono molto d'accordo, cioè tra l'altro esistono già dei casi concreti, voglio dire, se uno accede ad Amazon, che è la più grande biblioteca online del mondo, quindi un sito che vende libri online, già oggi succede che se vuoi comprare la versione cartacea paghi un prezzo di 4-5 volte superiore al fatto se tu di poter scaricare su Amazon la versione digitale. Perché? Perché evidentemente i costi della stampa, della messa in libreria, della distribuzione, in questo caso sono abbattuti. Allora, per ristrutturare la catena del valore, io credo sia necessario che venga, come dire, riallocato il peso delle differenti componenti. Allora, il giusto compenso per l'autore, il giusto compenso per l'editore, che obiettivamente fa un lavoro che rende una bozza scritta da me un libro pubblicabile con dei criteri e delle norme anche di leggibilità sensate, ma oggi questo tipo di compenso è del tutto sfasato, è del tutto a favore, come dire, è pensato peraltro per un modo di distribuzione della conoscenza, della cultura, della creatività che è finito o sta finendo. Anche perché allora, il processo parte da chi decide di fare l'editore, quindi stampare dei libri, fermiamoci al libro che è l'esempio più comprensibile, che deve cercare degli autori che abbiano un mercato e quindi stamparli. In realtà il processo dovrebbe essere inverso: chi ha qualcosa da dire, che pensa che possa avere un mercato, dovrebbe metterlo a disposizione dell'umanità, che dovrebbe corrispondere, in cambio del beneficio che ne ha, il giusto prezzo dello sforzo intellettuale di questa persona. Esattamente, per questo parlavo prima di una tassa sulla conoscenza, cioè noi paghiamo l'acqua, la paghiamo in qualche modo poco, ma la paghiamo allo stesso modo nella società contemporanea. Oggi la conoscenza è diventato anche il motore dell'economia, nel senso che quanto più si produce conoscenza creativa e ricerca, quanto più un sistema paese o una nazione diventa competitiva. Pensiamo al caso della Finlandia. Allora, da questo punto di vista, io credo che non sarebbe, è una provocazione, ma non dovrebbe esserlo, proporre che per quello che riguarda la conoscenza utile, cioè la conoscenza che crea innovazione e formazione, ricordiamoci che tu dicevi prima che non è vero che sono coinvolti tutti, ma sui libri scolastici sono coinvolti tutti quelli che hanno un bambino, voglio dire, sono milioni. Sì, che ancora probabilmente non sono nemmeno a conoscenza del problema e potrebbero pagare molto meno il testo del loro figlio. Sì, ovviamente sì. E questo ragionamento, voglio dire, per riguardo alla conoscenza utile, ammette soluzioni abbastanza semplici. Ad esempio, se fosse la scuola ad abbonarsi alle basi dati degli editori, quindi ai siti degli editori che forniscono contenuti digitali, e non fossero più i genitori a dover comprare i libri, e la scuola traesse i soldi per cui acquistare le basi dati digitali degli editori da una tassa appunto sulla conoscenza utile, beh, a questo punto avremmo fatto obiettivamente un passo avanti. In sintesi, lo studente si scaricherebbe sulla propria chiavetta USB il testo necessario alla lezione, allo studio e via dicendo, perché glielo dà la scuola stessa. Esattamente. Del resto, questo è un sistema che funziona già anche in ambiente, diciamo, gutenberghiano in Germania o in altri paesi d'Europa. Lì la scuola acquista i testi e li dà, secondo una formula in prestito per così dire, si chiama comodato d'uso, agli studenti, e dopo 3 anni, visto che si usurano, li riacquista. Lo stesso modello potrebbe essere riproposto anche in Italia, con costi decisamente minori sia per le persone sia per le famiglie, utilizzando le potenzialità che la rete ci offre, quindi la possibilità di non distruggere per così dire l'Amazzonia o i boschi finlandesi. Questo naturalmente creerebbe una grossa crisi di indotto, lo sappiamo bene, soprattutto io vedo a Roma che esiste un'intera strada che per mesi è occupata dai furgoncini e rivenditori di libri usati, vedo che le librerie scolastiche si fregano le mani, giustamente, perché ogni anno cambiano l'edizione dei libri e via dicendo. Vediamo se riusciamo a dare qualche idea, se possibile, della molteplicità delle soluzioni rispetto a quello che si sta muovendo di nuovo rispetto alla concezione del sapere legato al mondo digitale. Ho al telefono Juan Carlos De Martin, che è responsabile italiano di Creative Commons, che è l'associazione no profit sui diritti d'autore free. Buongiorno, vediamo se riusciamo a far capire di cosa si tratta rispetto alla possibilità di mettere dei prodotti del proprio ingegno in rete, avere comunque una piccola possibilità di esserne retribuiti senza passare attraverso il vecchio diritto che regola la vecchia legge che regola i diritti d'autore. Ma in realtà Creative Commons è una soluzione su base privatistica, su base volontaria, dei discorsi che stavamo facendo fino a questo momento, vale a dire, usando il diritto d'autore così com'è, si offrono degli strumenti per consentire a chi lo vuole di dire: la mia opera è liberamente disponibile ad alcune condizioni, piuttosto che tutti i diritti riservati. In questo modo chi ha pensato Creative Commons vuole suscitare, e in effetti ci siamo riusciti, una specie di patrimonio che su base volontaristica di contenuti di tutti i tipi, dalla musica, libri di testo, presentazioni e così via, possono essere accessibili da tutti senza che lo Stato debba intervenire e senza che necessariamente vengano cambiate le leggi sul diritto d'autore, come invece sarebbe auspicabile, sia pure più nel medio termine. Andrea Rossetti, docente di filosofia e informatica giuridica, trovi plausibile questo passaggio, lo switch fra il diritto d'autore, la SIAE e il Creative Commons? No, distinguiamo tra diritto d'autore e SIAE in primo luogo. Allora, la SIAE tutto sommato è un organismo che abbiamo solamente in Italia e quindi meriterebbe un discorso a parte. I Creative Commons non si contrappongono al diritto d'autore, questa è la cosa che a volte non viene percepita, ma sono una maniera diversa di specificare il diritto d'autore che resta. Certo, è addirittura auspicabile, ma ci sono anche dei casi in cui già questo viene fatto. Insomma, una scuola di Brindisi, ad esempio, quest'anno ha fatto sì che i suoi docenti interni, una scuola superiore, producesse manuali rilasciati sotto Creative Commons che poi sono stati dati agli studenti con prezzi effettivamente molto inferiori rispetto ai libri che si possono comprare nelle librerie. Tutto questo reso possibile appunto dall'utilizzo di uno strumento giuridico come sono le Creative Commons. E quindi non solo è possibile ma è anche auspicabile. Vorrei aggiungere un altro elemento che è quello del Wikimedia. Wikimedia è un sistema che conoscerete molto, che è quello di mettere la possibilità a ognuno di contribuire a una grande enciclopedia online, un grande strumento di sapere online condiviso da tutti. Ho al telefono Freda Brioschi, che è presidente di Wikimedia Italia. Buongiorno. Buongiorno. E quanto il fenomeno Wiki ha attecchito nel nostro paese? Tantissimo. Wikipedia è nei primi 10 siti usati in Italia e ha oltre 430.000 iscritti nella versione in italiano, che corrispondono a grosso modo 8.000 persone che tutti i mesi sicuramente scrivono qualcosa sul sito. Ecco, la cosa che tutti si domandano, questa popolazione sterminata, se uno pensa, che lavora gratuitamente, lei ha avuto mai possibilità o capacità o desiderio in qualche maniera di profilarla, capire chi sono, in quale ritaglio del tempo lo fanno e cosa muove questa loro attività? Ci abbiamo provato diverse volte, ci ha provato addirittura Wikimedia Foundation cercando di farlo a livello mondiale. In realtà quello che viene sempre fuori è che da un punto di vista della suddivisione del sesso ci sono tantissimi uomini e pochissime donne, ma quanto a che cosa facciamo nella vita e che background abbiamo, quali studi abbiamo fatto, quello che viene fuori è che siamo molto vari, rappresentiamo veramente bene la popolazione, facciamo tutti i lavori, abbiamo delle età diversissime, dai ragazzini dell'inizio delle medie fino ai pensionati ultraottantenni, e lo facciamo un po' nel nostro tempo libero, un po' rubacchiando tempo al lavoro, un po' non dormendo di notte. Che è un'attività che dà una pura gratificazione individuale e personale, nessun tipo di riconoscimento, nessun tipo di remunerazione, ma probabilmente si è andata venendo in superficie proprio da quando la rete ha permesso questa euforica e meravigliosa maniera di poter essere a disposizione degli altri e avere in cambio naturalmente una sorta di attestato di disposizione da parte degli altri, se stanno al gioco naturalmente. A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog 2.0. Stiamo concludendo la nostra riflessione sulle possibilità di condivisione della conoscenza, che diventa un bene comune quando si appoggia nei supporti volatili dei prodotti digitali. Stiamo cercando di capire e di comprendere come si stia maturando, anche se in maniera non sempre percepibile, anche con tutte le necessarie distinguo, una sorta di nuovo senso di piacevole e disinteressato altruismo nei confronti delle altre persone che condividono con noi dei livelli di conoscenza attraverso la rete. Lo stiamo facendo innanzitutto col professor Paolo Ferri, che è docente di tecnologie didattiche, teoria e tecnica dei nuovi media all'Università degli Studi Milano Bicocca, dove oggi viene presentato il libro La conoscenza come bene comune. Paolo Ferri, su questo senso che io forse ho sottolineato in maniera sin troppo ottimistica di altruismo, però ci sono dei distinguo da fare. Su Wikipedia si sono fatte crociate per definirla come un prodotto subordinato rispetto alle grandi e concrete enciclopedie. Tu come la pensi in questo senso? Ma io penso che in realtà Wikipedia o Wikimedia siano un grande bene comune a disposizione di tutto il mondo, di tutte le persone, e che ovviamente abbia dei limiti, ma in realtà ci sono studi seri, scientifici, mi pare sia Science, non vorrei sbagliare, forse Frida mi dice che è Nature, ma che ha fatto un'indagine sulle voci scientifiche di Wikipedia, le ha messe a confronto con le voci scientifiche della Britannica, cioè dell'Enciclopedia Britannica, una grandissima istituzione che data 300 anni, e il tasso di errore sulle voci appunto scientifiche era grosso modo simile. Hanno trovato, indagando un campione di voci scientifiche, 3 errori in Wiki nella Britannica e 4. Non so se sei d'accordo, Wiki. Possiamo considerarlo come uno strumento di passaggio che può essere usato con disinvoltura ma anche con qualche necessità di verifica, in attesa che si stabilizzi un sistema più ancora più attendibile di enciclopedia policostruita, costruita dagli utenti della rete. Sì, credo anche tra l'altro sia un caso abbastanza unico, perché 1 miliardo di utenti ormai è diventato, diciamo, il luogo dove per esempio i miei studenti vanno a farsi una prima informazione sulle materie che studiano, sugli argomenti che studiano. Ovviamente io gli dico: guardate, è una prima informazione, dovete poi verificare le fonti, però già avere a disposizione questa grossa massa di conoscenza utile, abbastanza affidabile per quello che riguarda le grandi voci o le voci più consultate, beh, è un patrimonio comune che credo vada difeso e non debba essere attaccato. Anche le università, le biblioteche, i centri di conoscenza naturalmente possono cominciare ad aprirsi a questa novità. Immaginiamo che in teoria esiste un canale aperto tra il sapere delle grandi biblioteche e la possibilità nostra di fruirlo nel nostro personale desktop. Paolo Borzo è un assegnista di ricerca all'Università Statale Milano e si è occupato in maniera particolare di come può essere rivoluzionato l'accesso alle biblioteche. Vediamo se riesce a darci un'idea di quello che sta accadendo. Paolo Borzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Attualmente è in atto un processo molto interessante, da certi aspetti potremmo definirlo anche rivoluzionario, che è quello del movimento dell'open access, quindi dell'accesso libero alla conoscenza e della libera disponibilità online di contenuti digitali. E questo movimento ha rivoluzionato anche il modo in cui viene diffusa o, insomma, più tecnicamente disseminata la ricerca scientifica, perché attraverso la disponibilità online di contenuti, di prodotti di ricerca scientifica, una gran massa di persone può accedere appunto ai risultati della ricerca. Ecco, qual è il percentuale, se è possibile capire, la quantità di materiale che può essere visionato o che è a disposizione delle grandi biblioteche universitarie, ad esempio? È un problema soltanto di tecnologia o c'è proprio uno stop di tipo ideologico perché tutte le biblioteche non siano tutte accessibili a tutti, ecco, come uno potrebbe sognare? No, ecco, c'è un problema di tipo ideologico e di tipo economico, ossia esiste una fetta consistente di questa tipologia di prodotti che è accessibile soltanto a pagamento e in certi casi le cifre a sborsare sono altissime, quindi solo alcune biblioteche di alcune università, parlando di ricerca scientifica, possono permettersi di sborsare certe cifre. Dunque soltanto gli utenti abilitati di quelle biblioteche e di quelle università possono accedere a certi materiali. L'auspicio in qualche modo, quello che sta accadendo grazie anche a questo movimento anglosassone di nascita dell'open access, è quello di fornire materiale ad accesso aperto che poi le biblioteche, svolgendo un compito civile fondamentale, si occupano, se vogliamo, di selezionare, riorganizzare, gerarchizzare, rendendolo più facilmente disponibile. No, è indubbio che esiste un grosso lavoro a monte di inserire, organizzare di database questo materiale, quindi esiste senz'altro la possibilità. Vediamo se riusciamo a fare un punto in realtà su quello che è il punto sulle politiche digitali in Italia, perché noi siamo in un paese in cui vediamo un grande interesse questo muoversi, questo evolversi, questo cambiare, ma vorremmo anche capire verso quale direzione concretamente si sta andando. Vediamo se riesce a essere bravo e sintetico Fiorello Cortiana, che è stato ex senatore dei Verdi, però è promotore dell'iniziativa Condividi la conoscenza. Quali sono le politiche nel nostro paese rispetto al sapere, alla diffusione del sapere digitale? Non ci sono. Diciamo, c'è la preoccupazione, indipendentemente dal cambio di governi che si è dato negli ultimi 10 anni, di tutelare le logiche omeostatiche degli interessi consolidati, che vedono con terrore l'idea di cambiare i propri modelli commerciali, cosa che invece ad esempio la Apple ha dimostrato già anni fa che si poteva fare. Cito Apple perché lo portai come esempio in Senato rispetto ad iTunes come modalità. Quindi c'è diciamo una generalizzata, non colorata da nessun tipo di accezione politica o di visione della vita, idea nel nostro sistema politico che in realtà lo statu quo è la maniera migliore per non crearsi problemi, diciamola sì, così. Diciamo che nonostante 1 milione di addetti in Italia nell'ICT, quindi nell'Information Communication Technology, e a N, non so quantificarle, partite IVA della conoscenza, quindi non così definibili, rintracciabili e collocabili, nonostante che l'Europa si sia data con la carta, l'agenda di Lisbona del 2000, l'obiettivo di fare del continente europeo il continente più competitivo nella società e nell'economia della conoscenza entro il 2010, noi consideriamo ancora, con la legge urbana tutt'oggi in vigore, il peer-to-peer un reato, quindi un illecito di natura penale, laddove la direttiva europea esplicitamente non lo equipara alla contraffazione. E qui naturalmente Ferrello Ortiani apre un altro argomento interessantissimo, divertentissimo, molto vicino alle giovani generazioni, quello dello scambio dei file, lo scambio della musica, lo scambio dei film, che comunque chissà perché rappresenta sempre il terreno di scontro quando poi, come abbiamo già visto, l'idea della diffusione del sapere attraverso gli strumenti informatici e digitali è molto più complessa. Ci sarebbe molto da dire a monte prima di arrivare alla penalizzazione laddove ci siano degli illeciti o alla comprensione di quanto si è evoluta anche la percezione nel mondo giovanile del possesso rispetto a un prodotto dell'ingegno. Beh, evidentemente il tempo probabilmente darà ragione a quelli che oggi sono soltanto delle avanguardie, come tutte le avanguardie giustamente si prendono anche l'onere di essere additati come dei pericolosi sovvertitori dell'ordine costituito. Alla prossima. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Radio 24. La passione si sente.